Mazzoli, Regi e Franca, ed oggi che parliamo di etica relazionale sono qua con noi. Buongiorno a Guy Michel Franca, francese che più francese non si può. Ma su, dai. Francese è proprio italiano. Bonjour a toi. Bonjour. E buongiorno alla dottoressa Silvia Reggi. Ti leggo bene perché ti ho fatto parte. Come stai, Silvia? Benissimo, grazie. Sei molto bella. Grazie. Dottori in scienze psicologiche dell'intervento clinico. Io adesso vorrei che parlaste voi e quindi vi chiedo immediatamente, visto che oggi si parlava di etica relazionale, si può educare all'etica? Sì, secondo noi si può perché l'individuo evolve attraverso la relazione, cresce e si struttura attraverso la relazione. E quindi prima con la madre, poi con l'esterno, a scuola, con tutti i contesti di quali si trova inserito, vediamo l'adolescente che cerca di identificarsi e che nella ricerca di questa sua identità passa prima attraverso un trasferirsi, a trasferire un'identità di gruppo, a relazionarsi a un gruppo, a cercare nel gruppo un'identità che non è ancora in strutturazione e non riesce a trovare in sé. Quello quindi, è pericolosissimo. Ed è pericolosissimo, infatti è una fase molto difficile quella dell'adolescenza, è una fase che andrebbe accompagnata, cioè l'adulto genitore, l'adulto insegnante dovrebbe essere vigile in questa fase per favorire nel ragazzo un'attenzione a sé, cogliere le proprie risorse, un rafforzare la propria autostima. Ecco, che non te lo dicevo quasi nessuno. E il problema è che anche a livello scolastico noi vediamo moltissimo un'attenzione a tutti gli aspetti cognitivi, pochissimo un'attenzione a quelli che sono gli aspetti di maturità e emotiva, di attenzione e di favorire questo processo appunto di maturazione rispetto all'emotività. Certo. Quindi secondo noi si può. E come si fa? Si fa nella relazione. Attenzione, si fa nella relazione. Si fa nella relazione. Si fa nella relazione con i piccoli, non c'è bisogno di parole perché loro non parlano ancora. Nell'asilo tra i 18 e i 36 mesi cominciano appena a strutturare il loro linguaggio. Certo. Ed è l'esempio, è l'esperienza dell'educatrice. Che, quindi se l'educatrice è incasinata... Sì, esatto. Cioè, è un macello. Si interviene da un punto di vista di formazione. Cercando di far sperimentare all'educatrice cosa significa empatia, cosa significa ascolto e attenzione e accoglimento dell'emozione del bambino con un rimando che sia un rimando positivo. Cioè, se l'educatrice è consapevole dell'emozione del bambino ed è consapevole della propria emotività, è in grado di trasferire questo senza parole con la relazione al bambino. E abbiamo visto sì, perché mi seguo da anni. Aspetta Mauro, chi vuoi dire subito qualcosa? No, mi associo completamente a quello che diceva, cioè effettivamente si può educare l'etica e noi lo vediamo tutti i giorni, cioè abbiamo dei bambini ad esempio che non sono più nell'asilo, che sono ritrovati in scuole materne e con diciamo insegnanti delle materne che sono stupefatti di questi bambini che dicono grazie, che non hanno pretese, che ringraziano quando ti danno le cose, cioè loro sono sconvolti da questi comportamenti che sembravano innati, ma non perché hanno sentito che gli adulti hanno vissuto in un ambiente che è stato così per loro, però crescono. Certamente. I valori dell'etica, quali possono essere? Beh, mi sembra che stamattina già ai nostri ascoltatori che ne hai dati già parecchi. Ci ho provato, lui l'ha lasciato. È stata bravissima. No, per riprendere, allora, innanzitutto ci sarebbe da parlare di solidarietà e di altruismo. Sì. Cioè, questa cosa è fondamentale, cioè, non si può pensare essere uomini etici se non si ha questa meta, no? Cioè, infatti Aristotele, che già 4 secoli prima di Cristo, cioè, siamo 24 secoli fa, un bel po', diceva, l'uomo perfetto non è quello che impegna la propria virtù per se stesso, oh, ma quella che lo fa per gli altri. E purtroppo noi 24 secoli dopo siamo ancora qui. Siamo a girare la coperta noi, cioè, ma io questo mi va, mi interessa, ma quanto ci guadagno, quanto c'è, ecco. E invece, cioè, i valori ci chiedono veramente questo altruismo, questa solidarietà. Questo che si poteva sintetizzare in una personale, cioè, questo lo vediamo molto nelle coppie, cioè, io ti amo perché tu sei così o così, no, io ti amo, basta, tu puoi essere così o diversa, io amo te, non quello che fai o quello che sei, cioè, come lo fai, no, cioè, dobbiamo arrivare a dei valori veramente, prendere coscienza, dissociare l'individuo veramente da quello che fa, per portarlo a esaltare la sua umanità. A essere, brava. E dunque mi fa parlare questo di tolleranza, cioè non posso pensare sempre di avere ragione io, cioè. E per sviluppare questa tolleranza bisogna sviluppare l'empatia. Cioè, non puoi pensare che qualche tempo fa ho visto nei giornali, no? Un poveretto che è stato accoltellato da quattro giovani per 12 euro, non so se era nato. Cioè, questi giovani, cioè, mancavano totalmente di empatia. Perché avessero avuto un minimo di empatia, vedere questo uomo che poteva essere un fratello, un padre, cioè uno zio, non lo so, cioè, mettergli un attimo a posto di questa famiglia che sarebbe stata rovinata, perché senza quell'uomo che lavora magari questa famiglia non si può più mantenere, insomma, tutta una serie di conseguenze per 12 euro, cioè non ha senso. No, non ha senso. Esatto, dobbiamo arrivare a questa nozione di tolleranza, di rispetto dell'altro, di valori, questo riconoscimento intrinseco. Quando dici a un bambino che non vale niente perché i voti che porta a scuola non vanno bene, cioè, vali tutto. E se lo porta dietro tutta la vita. E se lo porta dietro tutta la vita, effettivamente, basta con questi genitori che identificano i loro figli con i valori, i voti che portano da scuola. Cioè, se il bambino porta dei voti che non vanno, tu ti devi chiedere come mai. Perché? Cioè, non dire mio figlio è stupido. Forse è un problema. Sennò... Perché poi si arriva a questi estremi di 15 o 14 anni, che tentano il suicidio, a volte purtroppo ci riescono, perché purtroppo ultimamente è diventato più frequente che nel passato. Poi c'è il valore anche senza dubbio di comunicazione. Cioè, comunicazione. Sì, la comunicazione, ma questa comunicazione è vera, no? Se io ti dico una cosa che questa cosa ti disturba, tu devi pensare perché ti disturba. Io posso essere cattivo, ed è vero, ma perché questa cosa ti disturba? Evidentemente è un problema già. È un problema già, tu me lo accendi. Allora, io ti ringrazio di accendermi quel problema, ti guardo dentro, me lo risolvo, la prossima volta che me lo dici, non mi accendo più. Certo. Come capito nelle coppie. E usare la relazione per conoscersi, per capirsi è fantastico. Ecco, non cioè, per andarsi non, contro. Non per andarsi contro, certo, non per prevaricare o prevalere dall'altro, pretendere dall'altro qualcosa. Ma la relazione per scoprirsi, per conoscersi. Perché è ovvio che quando io mi relaziono con l'altro e nasce un conflitto, il conflitto si manifesta solamente, io ce l'ho dentro, c'è qualcosa che non mi fa sentire bene. È inutile dare la colpa all'altro che ti fa stare male, sei tu che fai male, l'altro in qualche modo ti dà l'impressione di vederlo. Ti presteranno delle domande un po' insolite rispetto a quelle che di solito io faccio all'ospite, ma... divertentissimi anche e illuminanti. Le domande sono domanda a lui, domanda a lei, quindi risponderete dando la vostra testimonianza in quanto uomo medico e donna medico, in quanto uomo e donna. Cosa deve fare, caro Ghi, un uomo per essere uomo? Ma innanzitutto, secondo me, rispettarsi e rispettare, ed esprimere una maturità che corrisponde, diremo, alla sua età fisiologica. Basta, quei cinquantenni che vogliono, insomma, fare, vabbè. Questo dimostra che c'è un problema, insomma, ecco. E non sicuramente caratterizza un uomo a partire dalla sua massa muscolare o dalla sua performance. Affatto. Sicuramente bisogna acquisire una dimensione della propria coscienza, della propria identità di genere. Cioè, se tu vuoi fare il maccio, che vuoi, capito, far vedere che tu, eccetera, cioè, perché che esisti, dimostrando... perché in fondo di te hai un problema di esistenza, potremmo dire un vuoto siderale di esistenza, no? Cioè, devi dire cose in questo campo. Ecco, dunque, gli uomini devono prima di tutto riconoscere se stessi. E che cosa deve fare Silvia, una donna, per essere donna, per avere la sua vita? Lo stereotipo che ci rimanda la società oggi è quello della seduzione, della conformità ai canoni estetici. Ma la donna non è assolutamente un insieme di attributi. Oh, ecco, grazie. Grazie, insomma, di tutte le donne. E quindi in un'ottica etica questo non ha assolutamente senso. senso. Ha senso che la donna si riconosca in quanto portatrice di risorse relazionali, di risorse di tempo. Vuol dire che devo andare più in fretta. Sì, se noi guardiamo le ragazzine che si ammalano, correndo dietro a questa immagine, comprendiamo quanto questo allontana la donna da quel tipo di modello. Basta con questo guardarsi dentro. Ma che cosa può fare chi, un uomo, per far sentire una donna donna? Deve sicuramente amarla tale che c'è. Non volerla diversa. Cioè, non volerla diversa, non volerla per le sue opportunità, per la sensazione che può avere subito. Deve esaltare sicuramente la sua luce, la sua capacità di espressione, e lui ne avrà il frutto di tutto. Se la donna corre dietro un'immagine, non ce la farà mai. No. E lui prima o poi dovrà cambiare donna, cioè non ha senso. E che cosa vi posso dire a voi di rispondere dell'altro? No, ci volevo dire solo che nella donna c'è qualcosa di sacro. Capito, Mauro? Ok. E che cosa, Silvia, può fare una donna per far sentire un uomo? Uomo? Amarlo, prima di tutto amarlo. Non cercare in lui un padre o una protezione, come ci rimanda appunto la cultura. Cercare invece di non trattarlo come un figlio. Oh, perché anche questo succede, uno non si purtroppo succede, non si accorge, ma spessissimo. E cercare invece di favorire la sua espressione lasciandolo libero di esprimere questa creatività che ha dentro, certo. E quindi smetterla di proiettare l'immagine che abbiamo di quello che deve essere. Quindi ogni si incastra perfettamente. Tutto si incastra, esattamente. Lei è stufa che lui non ci sia mai. Chi sbaglia? L'errore sì, è di tutti e due, perché lei è intollerante, perché lui non le dedica abbastanza tempo e gli fa pressione. Lui non regge la pressione e scappa ed è ancora più assente. Non gliela fa. Quindi la soluzione è di formare la coppia su altri prodotti. E se lui è stufo che lei ci sia sempre, chi sbaglia? Beh, entrambi. Entrambi. Però che lei ci sia in una coppia normale, se no non si copia. Cioè, il problema è che lui viva questo come una limitazione alla sua libertà. È lì, infatti. Esattamente. A questo punto si deve chiedere lui se la coppia la vuole, se solo ha bisogno di qualcuno che le metta la pappa nel microonde. Pappa nel microonde. Io ho una domanda per te, ma ti fa scottidanza? Come? Diciamo che Kim Michel ha avuto il coraggio di vedere la finale dei mondiali come unico francese in mezzo a tutti gli italiani, l'abbiamo massacrato. Ma aspetta, non hai detto tutto, che tu mi hai fatto strappare la bottiglia di champagne. Io? Non ricordo, non so. No, ho un vuoto etico di memoria. Ma questa è per te, Mauro, scusa, ma il seno è un oggetto sessuale? Per te tutti quanti? Perché tutti? La fai a me? Fate voi. A un francese? Sì. Allora. Bene, questo è l'argomento del secolo. Cioè, almeno del secolo passato, non so se da quello del secolo venire. Infatti comincia con Freud, no? Si dice che per lui, parlò per prima di questo impatto sessuale del seno. Un bambino quando succhia il seno avrebbe piacere sessuale a farlo. Il problema è che si parla di una fase emotiva molto, molto piccola, cioè del bambino molto piccolo. Nel bambino è normale, nell'uomo no, diciamo. Infatti, quando questo si verifica all'età adulta, c'è un problema, ma questo è tutto vano per i miei colleghi, no? Cioè, se hai questo problema di proiezione sul seno, fatti delle domande. Quindi è una proiezione. Esatto, una proiezione che porta l'uomo a una regressione. Regressione? Cioè, dove... Benissimo. Ma l'importante è saperlo, Sì, effettivamente. Essere consapevoli. Quali sono i campi della dove l'etica si svolge? Non ci sono campi specifici, è tutto l'ambito della vita umana. E io direi che con questo possiamo chiudere. Grazie a chi, Franca e Silveretti. Grazie a te.